Euroreportage. Dentro o fuori dall'Europa? La Gran Bretagna ha già deciso? Di Sergio Nava. Buongiorno da Londra, stazione di Victoria, dove arrivano e confluiscono molti dei treni che partono dalle zone intorno alla città e arrivano anche molti degli italiani che approdano qui in Gran Bretagna. Oggi Euroreportage dedicato alle elezioni in Gran Bretagna, vi racconteremo come si sono svolte. In questo momento, mentre vi parlo, mancano solo poche ore all'ora X e vi racconteremo tutto qui in presa diretta attraverso le voci di politici, giornalisti, gente comune che commenteranno con noi queste elezioni e soprattutto il riflesso che avranno nei rapporti tra Europa e Gran Bretagna. Prima di entrare nel vivo della competizione elettorale britannica, andiamo a rileggere l'ultimo mese di campagna insieme alla giornalista Barbara Serra, conduttrice di Al Jazeera, che contesta chi ha definito questa campagna come noiosa. Io non so se sono d'accordo con la gente che la trova noiosa. Cioè, a un certo punto puoi avere il partito scozzese che diventa un grande potere in Inghilterra, non so se lo definirei noioso. Cioè, cosa pretende la gente? Perciò, come la definirei? Credo che non è che non ci sono stati momenti di genio, è che non c'era un leader naturale che ispira la gente, perciò non c'era la figura, per quanto ora sia controversa, di un Tony Blair che comunque, lo sapevi, nel 97 avrebbe stravinto. Questa campagna elettorale, guardandola a posteriori, l'Europa alla fine ha finito con l'avere solo un'accezione negativa? No, perché per me si sono mobilizzati tanti in dire che comunque l'Europa, ricordi che l'Inghilterra o il Regno Unito è fuori dall'euro, perciò già non soffre. In Italia, quando si parla di sentimento anti-europeo, è molto legato alla moneta, a quello che è successo. Qui non c'è, perciò, sai, per quanto gli inglesi siano sempre molto patrioti, tutti realizzano che far parte d'Europa. C'è il lato economico e poi c'è anche, sai, il lato di sicurezza. Il giorno della votazione abbiamo seguito le operazioni in un seggio del West End a pochi passi da Oxford Street, pieno centro di Londra. Christian, italiano residente in Gran Bretagna, è un cantante di professione nonché attivista del Partito Conservatore. Il 7 maggio ha dedicato l'intera giornata al ruolo di rappresentante di lista. Quando gli elettori entrano, lui chiede il numero di tessera elettorale, serve al partito per costruire un database di contatti in vista delle elezioni successive. A Filippo Baglini, direttore della radio web London One Radio, che ci accompagna nel nostro tour tra i seggi, chiediamo di descriverci la zona in cui ci troviamo e soprattutto il luogo abbastanza anomalo per ospitare un seggio elettorale. Siamo all'interno di una palestra e infatti stanno entrando e uscendo persone di un po' di vario genere, perché alcuni vanno a fare i balli, altri vanno a votare, quindi è un ambiente veramente strano, rilassante, in una palestra, quindi c'è questa, è molto carina, no? Quasi come se gli inglesi vogliono prendere con sportività un po' questa giornata di voto, insomma. Sì, un po' più all'americana, se vogliamo, come luoghi di votazione. Da noi in Italia si vota fondamentalmente nelle scuole, in edifici pubblici, qui anche edifici privati, assolutamente privati, perché la palestra sta normalmente funzionando, sono adibiti al luogo di voto ed è assolutamente normale. Assolutamente normale, nel quartiere vicino a Soho, per esempio, ci sono le police station all'interno di una chiesa, per cui hanno unito il sacro e il profano, e qui infatti, come sentite, stanno entrando e appunto le persone, alcune entrano per andare a fare il balli, yoga, e altre per andare a votare, quindi è molto originale questa cosa rispetto invece a noi italiani, che siamo un pochino più tradizionali, nelle scuole, chiudono le scuole qui. È tutto aperto. Anche perché tra l'altro è giovedì, per cui esatto. È giorno assolutamente feriale. Parlavi dell'Italia, non ci sono molti italiani che votano perché c'è un problema anche di requisiti per votare qui alle elezioni nazionali. Spiegaci quali. Sì, bisogna essere cittadino inglese, si può prendere dopo 5 anni, quindi diventi cittadino, puoi avere la doppia cittadinanza, a quel punto essendo cittadino inglese puoi votare. Se non sei cittadino inglese puoi votare invece solo per le locali. In serata scelgo di partecipare a una delle pochissime election nights organizzate a Londra, una volta appurato che né conservatori né laburisti si erano attrezzati in tal senso. Centinaia di persone affollano l'edificio della prestigiosa London School of Economics, tanti i professori, decine gli studenti e gli ospiti mischiati a numerosi giornalisti stranieri. atmosfera rilassata anche grazie ai litri di birra e prosecco in circolo. Insieme seguiamo la lettura degli exit polls televisivi alle 22. Le previsioni sbaglieranno di pochi seggi la suddivisione del Parlamento, ma azzeccano in pieno il risultato. I conservatori vincono. Boris Fraser, capo dello European Institute alla London School of Economics, si dice però ottimista di fronte all'ipotesi ormai certa di un referendum britannico sull'Europa tra 2 anni. Penso che è quasi sicuro che i britannici voteranno per rimanere nell'Unione Europea. Il risultato questa notte, con questa vittoria molto impressionante dei conservatori, fa molto più probabile, perché David Cameron, con questo successo, avrà la legittimità per negoziare con i suoi partenari nell'Unione Europea. E anche ora la confianza e la legittimità per negoziare è molto sicuro, direi 900% di sicurezza che i britannici voteranno per rimanere nell'Unione Europea. L'ipotesi che pone il professor Fraser è stimolante, tuttavia occorre vedere su quale Europa voteranno nel 2017 gli elettori britannici. Questo dipende molto dai negoziati che Cameron avvierà in estate con gli altri 27 leader comunitari. A Saeed Kamal, eurodeputato conservatore e presidente del gruppo dei conservatori e riformisti all'Europarlamento, chiediamo quali saranno le linee rosse di Cameron. È abbastanza chiaro che servono riforme europee sui temi della libertà di movimento e dei sussidi agli immigrati, ci dice. Noi accogliamo con favore a Londra persone da tutto il mondo che vengono qui per lavorare, ma siamo preoccupati per l'afflusso degli stranieri che arrivano senza questa intenzione. C'è pure un tema di rappresentatività in Europa tra i paesi che appartengono all'Eurozona e quelli che sono esterni. Noi vogliamo assicurarci che questi ultimi, tra cui noi, non vengano regolarmente messi in minoranza a Bruxelles, e chiederemo pure altre riforme. Quando sono a Bruxelles mi trovo circondato da colleghi che parlano di Stati Uniti d'Europa, di una Repubblica Federale Europea, di un'Europa più integrata. Dobbiamo distanziarci da questi temi guardando alle riforme che servono per davvero alla competitività del continente all'interno del mondo globale, dice Kamal. E a Kamal chiediamo quali possono essere i margini di trattativa con Bruxelles sulla libertà di movimento, tema sacro in Europa. Se guardiamo la libertà di movimento, notiamo come il concetto stesso si sia modificato e ampliato con gli anni. Ora mi sento dire da persone di altri paesi europei: ho il diritto di venire in Gran Bretagna e percepire sussidi dal primo giorno. Beh, questo provoca molto risentimento. La maggior parte degli immigrati viene qui per lavorare e pagare le tasse, e da londinese ne sono felice. Ma c'è anche chi viene per approfittare del sistema, e questo invece mi preoccupa. Per questo occorre ridefinire la libertà di movimento per i lavoratori in Europa. L'altra cosa su cui dobbiamo riflettere come inglesi sono i rapporti con i paesi esterni all'Europa. Qualsiasi cittadino europeo può venire qui senza problemi, ma i cittadini delle ex colonie britanniche, con i quali abbiamo legami storici, devono sottoporsi a lunghi processi di autorizzazione dei visti che li discrimina. Dovremo occuparci anche di questo aspetto, dice Kamal. E Saeed Kamal ci lascia con una chiara spiegazione di come Londra, angolo conservatore, veda l'Europa del futuro. Nei fatti, la premessa di un'Europa a due velocità. Occorre una relazione più flessibile. Paesi come la Gran Bretagna non devono fermare le nazioni che intendono progredire verso una maggiore integrazione, ma allo stesso tempo nessuno ci può o deve forzare a marciare verso questa Europa più integrata o verso gli Stati Uniti d'Europa. Sentenze. Questa sarà quindi la linea della Gran Bretagna nei prossimi 5 anni, a partire dal referendum sul dentro o fuori dall'Europa in programma nel 2017, che segnerà la linea di demarcazione tra Londra e Bruxelles. Domanda ipotetica ora: e se le elezioni le avessero vinte i laboristi di Ed Miliband, quale politica europea avremmo avuto? Lo abbiamo chiesto a Ivana Bartoletti del Labour Movement for Europe, già candidata alle ultime elezioni del Parlamento europeo. Il partito laborista è un partito pro-europeista, è un partito che crede che il ruolo della Gran Bretagna, il posto della Gran Bretagna sia in Europa, è un partito che ha una visione aperta verso il mondo e non una visione chiusa e di isolazionista verso nei confronti del mondo. E questa è stata la posizione del Partito Laborista sempre. Negli ultimi mesi il partito, noi abbiamo sempre mantenuto una posizione ferma su questo, che il nostro ruolo è in Europa, con la famiglia dei socialisti europei, ovviamente per cercare di cambiare l'Europa, e per lavorando appunto con gli altri partiti per investire più sui giovani, su crescita e sviluppo, e meno su quella che è stata la linea di austerity portata avanti in questi anni soprattutto dalla Germania di Angela Merkel. Per chiudere vi proponiamo un'intervista d'eccezione, quella ad Alan Scadd, il fondatore dello UK Independence Party, schieramento uscito sconfitto dalle elezioni anche se con una più che rispettabile quota di voti. Scadd, che è professore di storia internazionale alla London School of Economics e da molti anni ha lasciato lo UKIP in rotta con Farage, ha chiesto e ottenuto dagli elettori di South Tennant di far fallire la candidatura a Westminster proprio di Nigel Farage. Tuttavia Scadd continua ad essere un fervente anti-europeista. Sentiamo perché. L'Unione Europea ha un grande deficit democratico, non rende conto di ciò che fa, non è trasparente, ci costa troppo, riceviamo in cambio solo burocrazia e cattive politiche. Ne aumenta la nostra influenza in Europa, dice Scadd. L'Europa è pacifista, non è esercito, si divide su qualsiasi questione internazionale. Beh, non vedo davvero un motivo per restarci. Inoltre, la Gran Bretagna è su molte questioni già con un piede fuori dall'Europa. Quindi, perché non uscire del tutto? Inutile dire che Alan Scadd è già pronto a lanciare la sua campagna per un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa in vista del prossimo referendum. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.